La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, La Rosa Purpurea, il nostro momento di cinema, la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24, come sempre per accompagnarvi nelle scelte in sala del weekend segnato da 5 nuove uscite, una settimana un po' più corposa rispetto alla scorsa, soprattutto in termini di qualità di proposta, sia per quanto concerne il cinema più di cassetta, sia per quello, diciamo così, un po' più di qualità ed autore. Ma sono tanti i film di grande impatto, diciamo, almeno per quanto riguarda il budget, quindi di grande impatto spettacolare in questa settimana. È stata anche una settimana segnata proprio nei primi giorni da due scomparse che si sono susseguite a 24 ore di distanza una dall'altra, due scomparse clamorose per il mondo del cinema e per quello che hanno fatto nell'immaginario nostro collettivo. Uno, George Romero, uno dei più grandi padri della storia dell'horror, inventore sostanzialmente del cliché dei morti viventi come dire dato politico di critica alla società consumistica contemporanea, uno che con l'horror ha detto cose molto più politiche di tanti film politici. E poi il giorno dopo la scomparsa di Martin Landau che è stato premio Oscar, è stato, lo ricordiamo, in film straordinari anche in tempi recenti, quando interpretava una vittima dei campi di concentramento nazisti, quando ha fatto ed interpretato ruoli magistrali, ma lo ricordiamo soprattutto nel nostro immaginario come il comandante Koenig, il comandante della base Alfa di Spazio 1999, a mio modesto avviso la più bella serie della storia della TV di fantascienza, e forse non solo, quando ancora non si chiamavano serie TV ma si chiamavano telefilm semplicemente. Insomma, due volti, due visi straordinari che ricorderemo in questa puntata della Rosa Purpurea più tardi con ospiti al telefono per cercare un po' di inquadrarli meglio. Ma veniamo prima alle proposte, cominciamo dalle nuove proposte in sala. Dicevamo, sicuramente molto cinema di cassetta, molto cinema potenzialmente da botteghino, e sicuramente va a rivolgersi a un pubblico di adolescenti questo film che si intitola Prima di domani, un film protagonisti, un teen movie, comincia almeno come un teen movie sulla vita di un adolescente, poi diventa chiaramente un film sempre più drammatico quando la protagonista, dopo un incidente, rimane sostanzialmente intrappolata in un vortice temporale che la costringe a rivivere la stessa giornata sempre in una sorta di giorno della marmotta che non finisce mai. Abbiamo mandato la nostra Chiara Pizzimenti a vedere il film, sentiamo. Se vi dicessero che oggi è il vostro ultimo giorno, che fareste in queste ultime 24 ore? Io stavo per scoprirlo. Ciao, gnocca! Dai, entra! Ma la smettete! Che fa? La sai sbloccare, vero? Non è possibile, il liceo sta quasi per finire. Almeno abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Abbiamo baciato molto, ballato molto. I miei sono fuori, sto organizzando una festa. Oh mio Dio. Ma chi l'ha invitata? Sono voci di adolescenti, nel più perfetto stile liceale americano, quelle che raccontano gli ultimi giorni, dell'ultimo anno del liceo, quasi un topos del cinema adolescenziale statunitense. Sono il gruppo dominante, quelle che vanno alle feste, quelle che non invitano gli sfigati. Una di loro, Samantha, però, è protagonista di una storia diversa, anzi, di nuovo, della stessa storia. Al liceo pensano tutti di essere immortali. Dice che devi alzarti. Ma è sabato. Che è successo ieri sera? Di che parli? Ma la smettete! La sai sbloccare, vero? È tutto il giorno che ho dei déjà vu. Al liceo pensano tutti di essere immortali. Attenta al camion. Quale camion? Non è un errore, non è la stessa clip, è la stessa giornata che si ripete con minime variazioni, per giorni e giorni, minime variazioni che sono la via per capire come uscire dal loop temporale e fare in modo che l'incidente finale non ci sia più. Non importa quello che faccia o dica, il giorno inizia e finisce sempre allo stesso modo. I miei sono fuori e sto... Stai organizzando una festa a casa? Sì, come lo sai? Rob... Che hai? Sto andando nel panico. Ti sei messa nei guai, fidati di me. Mamma, secondo te sono una persona buona? Non importa quello che penso io, ma quello che pensi tu... Sociopatica ore 12. Ma perché odiamo Giulia? Come mai ora ti interessa? Ieri dicevi che ti faceva schifo. È stato molto tempo fa, è stato ieri. Giulia, t'aspetta! Se potessi vivere più volte lo stesso giorno, vorrei che quel giorno facesse la differenza. E non solo per me. È storia di crescita, come ogni buon film adolescenziale, in cui si insinua il bullismo e la presa di coscienza di sé rispetto agli altri, l'accorgersi di essere carnefice essendo solo complice. Il tutto attraverso un fondo che è di paura, con sfumature che hanno l'afflato dell'horror. Zoe Deutsch interpreta la protagonista Samantha Kingston. Se la storia vi è sembrata già sentita, avete ragione, ma non nel senso che questo film sia la copia di un altro. Ha i colori e le sensazioni di molti altri, pur venendo dall'originalità di un libro, E finalmente ti dirò addio, che è uno dei più venduti del genere young adult degli ultimi anni. Dentro a questa storia c'è la marmotta di Ricomincio da capo, ma forse anche un po' di Carrie, Source Code e Days of Tomorrow e anche il televisivo 13. Sulla carta il libro era meglio, ma anche al cinema non sfigura la storia, pur ripetendosi un po' troppo. Diamo un attimo un'occhiata alle classifiche che ci spiegano sempre un po' i gusti del pubblico e ci permettono anche di riepilogare quali sono i film in sala, quelli che sono usciti nelle settimane scorse, di cui alla Rosa qui abbiamo parlato nei giorni passati, per fare subito un parallelo su quello che sta succedendo fra l'Italia e gli Stati Uniti. Cioè, la classifica del box office italiano a tutto il weekend scorso, quindi fino a domenica scorsa, vede Spider-Man Homecoming in testa e The War, il pianeta delle scimmie, in seconda posizione. Ovvero, il pianeta delle scimmie non è riuscito a scalzare Spider-Man dalla prima posizione. Nel weekend Spider-Man ha fatto tipo 150.000 euro in più del concorrente ed è arrivato già un totale di 5 milioni e passa. Io ripeto, sono dati fermi a domenica scorsa, bisognerà vedere cosa succede in questo weekend. In America invece la situazione è perfettamente ribaltata. The War, il pianeta delle scimmie, è partito prima settimana 56 milioni e mezzo di incasso. Secondo posto per Spider-Man Homecoming nel weekend, ma Spider-Man ha già raggiunto in America 208 milioni di dollari di incasso, il che ci dice che questo Spider-Man è un vero e grande successo. Devo dire, anche noi avevamo avuto qualche perplessità all'inizio perché, ricorderete, ne abbiamo parlato qui alla Rosa, si faceva fatica a inquadrarlo fra teen movie, una sorta di comic adolescenziale. Invece evidentemente John Watts è riuscito a trovare la quadra di questo personaggio e a raggiungere il cuore del pubblico in un vero e proprio reboot che potrebbe aprire una nuova vita a un personaggio che dopo i film di Sam Raimi sembrava aver un po' chiuso la sua parentesi. A questo punto noi diamo la linea alla regia, torneremo fra poco e cominceremo a entrare in un clima di war movie, di guerra, di film di guerra, perché ci sono due film, curiosamente, che arrivano tutti e due in sala questa settimana, che sono USS Indianapolis e Operation Chromite, che raccontano proprio la guerra, soprattutto sui versanti dell'Asia e del Pacifico. Fra poco, qui alla Rosa Purpurea con Boris Sol. La Rosa Purpurea. Il presidente Truman l'ha scelta per guidare una missione di massima segretezza. Sì, signore! Dove incontreremo la scorta? L'incarico è top secret. Non avrete una scorta. I giapponesi sono avversari estremamente disciplinati, signore. È una missione suicida. Avanti tutta. È il ritorno del grande cinema bellico nelle sale cinematografiche italiane e in generale al cinema. Forse è un caso che questa settimana arrivino due film, USS Indianapolis, di cui avete appena sentito una prima clip, e poi Operation Chromite, di cui parliamo fra poco. Non è un caso che fra un po' arrivi anche Dunkirk, e quindi, come dire, le grandi battaglie tornano protagoniste di un cinema di intrattenimento. Adesso vedremo anche con quale pretesto, se solo spettacolare, se invece quello di raccontare ancora episodi sconosciuti delle guerre di metà del secolo scorso, in questo caso della Seconda Guerra Mondiale con USS Indianapolis. Siamo nel luglio del 45, la USS Indianapolis è uno degli incrociatori più veloci, più efficaci della Marina militare americana, e sotto il comando del capitano McVeigh, interpretato da Nicolas Cage, ha combattuto tante battaglie nel Pacifico. Gli viene, come avete sentito dalla clip, affidata una missione speciale, in incognito, senza scorta, quella di trasportare una delle due bombe atomiche che metteranno drammaticamente, tragicamente fine alla guerra. Ma durante la traversata le cose non vanno esattamente bene, il film diventa un disaster movie. Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ti eccita questo cinema bellico che torna a mostrare i muscoli in sala? Ma il cinema bellico secondo me è un po' come il cinema sul pugilato, alla fine funziona quasi sempre, o è un disastro come Pearl Harbor a suo tempo e con qualcuno, qualche film, o se no è un rifugio abbastanza sicuro, perché penso proprio a questo USS Indianapolis. Siamo in presenza di un film che in qualsiasi altro caso, probabilmente con questa semplificazione, con questa caratterizzazione estremamente basica dei personaggi, con questa taratura di sceneggiatura molto ritmata, molto compassata, allo stesso tempo molto prevedibile, probabilmente qualsiasi altro genere non avrebbe retto. E invece in questo caso poi alla fine ti ritrovi con un film che regge, perché se vogliamo la guerra è un grande stereotipo e inevitabilmente lo stereotipo deve rassicurarti, deve portarti dove immagini, e in parte fa parte del nostro immaginario, nel senso che inevitabilmente sappiamo che certe cose sono accadute, sappiamo come sono accadute e sappiamo anche come ci sono state raccontate, più come una battaglia o una partita di risico che come con la complessità reale con cui sono avvenute. In più, chi fa cinema bellico secondo me deve essere bravo come lo sono i genitori quando raccontano le favole ai propri bambini, nel senso che deve sapere come maneggiarlo, deve sapere come farti presente che magari un bianco e un nero nell'esercito americano si odiano ma poi lavorano insieme, come una cosa sbagliata alle mani della persona giusta viene comunque nobilitata, e in questo caso siamo di fronte al delitto più grande, la bomba atomica, in mano comunque a un uomo giusto che nella verità è stato assolto per tutto quello che accade. Non ve lo dico perché non siamo obbligati da non americani a sapere che fine fece lo USS Indianapolis, dicendovelo rovinerei il gusto della trama e il gusto del film, però possiamo dire che per quello che successe il nostro fu assolto dai superstiti, cioè da quelli che c'erano, massacrato e linciato dai media, in particolare dai parenti delle vittime, come spesso succede agli uomini giusti. Certo, poi di fronte a una storia così, magari Clint Eastwood te la sa raccontare meglio nel caso di un aereo salvato da precipitare, però devo dire che USS Indianapolis, pur non essendo salvato il soldato Ryan, si difende fino alla fine e riesce comunque a portarti quell'epica, quella retorica che ti piace, che inevitabilmente nel cinema bellico, appunto come nel cinema del pugilato, in cui poi alla fine i pugni dati al momento giusto, la rinascita del campione, la battaglia, e l'importante non è vincere ma partecipare in maniera onorevole, probabilmente appunto sono queste le basi su cui difficilmente si sbaglia. Quando si sbaglia è una disfatta, volendo usare una metafora bellica, una Waterloo, ma se no di solito insomma si esce magari feriti ma non vinti. Pensa ai sommergibili, signore? Difficile colpire quello che non vedi. Se permette da protocollo dovremmo zigzagare, signore. Non è molto efficace contro i Kaiten. I Kaiten? È una nuova arma giapponese. Un siluro umano suicida. Sembra un aereo kamikaze sottomarino. Se il nemico lancia un Kaiten, può ricalibrare la posizione sui nostri cambi di rotta. Siamo più veloci dei sommergibili, ma non dei Kaiten. Noi prendiamoci una pausa adesso per giocare insieme, prima di passare all'altro film di guerra, Operation Chromite, con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Vorremmo che riportasse alla ragione Hardy Pruitt. Un'impresa in cui sono riuscito in pochi fino ad oggi. Vorremmo che ci provasse. E quale sarebbe il motivo? La sua sopravvivenza. E allora, avete sentito anche un nome e cognome, quindi è un film di questa stagione, dell'inizio di questa stagione. Provate a sforzarvi a capire di che film si tratta, perché ci sono lì un paio di Blu-ray che vi aspettano. Il film noi lo riveleremo alla fine di questa puntata, ma insomma i vincitori arrivano invece settimana prossima. E comunque, vi ricordo ancora, più tardi un'altra traccia per giocare insieme. E allora trasferiamoci di guerra in guerra, come dicevamo, con Operation Chromite. Se prima eravamo in chiave di Seconda Guerra Mondiale, qua siamo nella guerra di Corea. Giugno 50, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con aiuto di Cina e Russia. Seul cade in 3 giorni e il resto del paese ci mette invece un mese, ma il generale MacArthur, comandante delle forze ONU, per rispondere all'attacco nordcoreano pianifica uno sbarco. Ed ecco l'operazione, che si chiama Operation Chromite. Sono curioso, generale. Cosa c'è dietro l'operazione Chromite? Che cosa vuole davvero ottenere? Incheon deve essere la sua Normandia? Eh? Una specie di trucchetto per arrivare a candidarsi come presidente? Lei pensa che io voglia espugnare Incheon per diventare presidente? Ho dedicato 50 anni della mia vita a combattere sul campo. Io sono Douglas MacArthur. Io vinco le guerre. Non cerchi di educarmi o di analizzare le mie motivazioni. Lui è il generale MacArthur, ma è anche Liam Neeson, la regia di John H. Lee. Ovviamente l'Operation Chromite aveva pochissime possibilità di successo e questo, come dire, dà forza alla storia e al film. Altra guerra, un po' anche altro genere, mi sembra che qui si va un po' più sul classico, no? A livello di cinema bellico, Boris. Si va sul classico, non è necessariamente un complimento. Allora, bisogna fare una premessa importante su Operation Chromite. La Corea del Sud è una delle potenze cinematografiche mondiali più forti della storia moderna. Produce tantissimo, ha un giro d'affari enorme e noi non la conosciamo, cioè di fatto film coreani, sudcoreani arrivano pochi, male, anche questo che è un colossal, che è stato prodotto per essere un successo mondiale, da noi arriva nel pieno luglio, questo per far capire che insomma è un mercato che noi in qualche modo non ci siamo rifiutati di capire, anche perché probabilmente è lontano dai nostri gusti, e in questo senso quindi ha anche una serie di stereotipi, di regole a cui noi non siamo abituati. Il motivo per cui arriva questo Operation Chromite è il faccione di Liam Neeson, che è uno di quei passepartout nel mercato italiano, per cui se fa una storia di vendetta o se si mette in bocca una pipa di pannocchia vale uguale, insomma, noi lo adottiamo e ce lo vediamo senza alcun problema. Il film parla di anche in questo caso di fatti reali, parla di degli americani appunto in Sud Corea, del generale MacArthur, e cerca di raccontarlo con quel tipico atteggiamento che si ha ad anni di distanza nel momento in cui si vuole anche pacificare una memoria collettiva. Ne esce secondo me un papocchio per due motivi: uno, perché la sceneggiatura non è mai realmente decisa, ma si barcamena tra ciò che è veramente avvenuto e un romanzamento sentimentale, emotivo, che risulta davvero troppo semplicistico persino per una realtà come quella del cinema bellico. Insomma, avevamo detto che basta qualcosa di semplice per accontentare gli spettatori del cinema bellico, ma non deve essere troppo semplice. E poi perché la Liam Neeson, anche se lo amiamo tanto qui in Italia, è davvero sempre più la parodia di se stesso. Non riesce l'attore irlandese a non solo ad essere all'altezza dei 10 o 20 anni fa in cui era un grande attore, ma non riesce nemmeno ad essere all'altezza di quell'icona che si è costruito, di quell'icona da duro, di quell'icona da vecchio saggio che fanno arrabbiare e che può fare qualsiasi cosa, anche da quell'uomo che voi vedete vinto e sconfitto nell'ultimo film di Scorsese, e che in quei pochi minuti in cui compare dà un significato forte al film. Qui invece sembra tornare Gigione, probabilmente perché ha un ruolo da protagonista e probabilmente perché all'interno di questo colossal gli hanno dato anche uno spazio produttivo enorme, e Operation Chromite sembra più la parodia di un film bellico che un film bellico vero e proprio, anche se poi non fa nemmeno vedere involontariamente, è semplicemente un film che sarebbe sembrato vecchio anche nell'immediato dopoguerra e che adesso lo è ancora di più. E allora, questo era Operation Chromite. Abbiamo chiuso almeno per il momento la parentesi bellica qui alla Rosa Purpurea. Linea alla regia, fra poco torniamo e si sorride molto di più perché si torna indietro con gli anni con un telefilm che ha fatto la storia. È stata la settimana di telefilm davvero che ha fatto la storia del nostro intrattenimento televisivo. Parliamo di Chips. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti e le verità di Olimpia, la città dello sport, continuano a farvi compagnia anche durante l'estate, in un nuovo orario. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, naturalmente qui su Radio 24. La rosa purpurea. Mamma che groove! Le ricordate queste note? Sì, pelle d'oca Radio 24, la rosa purpurea. Boris, pelle d'oca anche tu? Mamma mia, pelle d'oca quasi squamata, devo dire, perché i Chiefs fanno parte proprio di quel tipo di serie TV che io guardavo con mio papà e ci divertivamo tutti e due. Assolutamente, ma poi ecco, quando si chiamavano ancora telefilm, ogni puntata autoconclusiva, mezz'ora a casa o un'ora a seconda della durata, e non avevi da pensare, ah no, da chissà questo personaggio se lo ritrovo nella sesta, poi tu, era tutto molto molto più semplice. Ma al di là della nostalgia che ci attanaglia, a me ci è sempre piaciuto un casino per il, come dire, per il confronto fra Ponciarello e il suo socio, fra questi due personaggi veramente assurdi, che, come si dice alla Sorbonna, sono adesso diventati dei cazzari. Cioè è una trasposizione questa che è stata fatta nel cinema per il grande schermo, firmata da Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Peña e Vincent D'Onofrio nel cast, che porta i personaggi su un livello demenziale. Cioè praticamente si sposta dal poliziesco di due guasconi anche un po' sciupa femmine e li porta un po' in un territorio che forse è quello più facile da raggiungere per un pubblico di oggi, anche comprensibile se vuoi come manovra, ma forse nasconde anche l'incapacità di come dire, entrare e narrare personaggi di quel calibro, di quel tipo e anche di quel divertimento. Ascoltiamo questa clip che ci dà un po' dimostrazione di quello che stiamo dicendo e poi ne parliamo. Alla California Highway Patrol pensano di avere un agente corrotto. Vogliamo che ti infiltri. Davvero? Mitico. Ti mettiamo con un novellino, John Baker. Siamo colleghi. Questo lavoro potrebbe salvare il mio matrimonio. Che ti sei messo? È la mia uniforme. Hai bevuto 3 birre di troppo. Io sono uno sbirro duro che va in moto, non ho emozioni. Sei dell'FBI? Sì. Dobbiamo concentrarci. Mi prendi in giro? Mi agito un po' quando vedo dei pantaloni da yoga. Allora Boris, abbiamo sentito anche dalla clip, insomma, battute, battutacce, due personaggi strampalati, è l'operazione modernizzazione di queste serie TV degli anni 70 che stanno arrivando, o anche degli anni 80 e 90, che stanno arrivando nelle sale in questi anni. È strano recensire Chips, perché da una parte tu rimani sconvolto, perché è come scoprire che mamma e papà erano degli hippie, nel senso... Francamente, ritrovare quei due con quel linguaggio, con quegli atteggiamenti, con quel sottotesto camp che magari sì, si poteva anche intuire nelle volontà dello sceneggiatore, ma che era sicuramente molto molto più morbido in quel racconto, anche perché camp forse sono tutti i buddy movie, tutti i film e telefilm che vedono come protagonisti due uomini. E oggettivamente disorienta chi li ha amati, disorienta chi li ha seguiti, disorienta chi ci è cresciuto. E dall'altra parte non si può dire che non sia un film divertente, non si può dire che non sia una chiave sicuramente efficace per raccontare qualcosa che forse è irraccontabile, perché a mio parere, e poi bisognerebbe indagare, tutto nasce dal marketing, cioè dal fatto che nei grandi studios hanno capito che la nostalgia è un business, è un grande business. Quando noi dicevamo appunto che dovevamo farci venire la pelle d'oca, è perché anche solo quelle note già ci raccontano qualcosa di molto molto forte per il nostro immaginario e per la nostra memoria collettiva. E detto questo però il marketing non sempre ha ragione, perché poi ti costringe appunto a tradurre quelle emozioni e a storpiarle inevitabilmente. E ormai sta diventando un problema, perché poteva essere divertente quando è arrivato Starsky Hutch, poteva ancora essere divertente quando è arrivato Baywatch, ma adesso che arriva con i Chips tu ti dici, vabbè, ma allora non lo sanno veramente fare, cioè allora questo modo di demenzializzare quel tipo di racconto è semplicemente una resa di fronte all'impossibilità di tornare a quella semplicità, di ritornare a una serie TV, anzi a un telefilm che va detto finiva con un fermo immagine, anzi con una serie di ferme immagini che denunciava la sua semplicità, ma come era Hazard e come erano tanti altri. E allora forse però, se non sappiamo più raccontarli, se non sappiamo più tornare a quell'ingenuità, potremmo anche lasciarli stare e fare qualche soldo in meno e tenerci la nostra memoria. Lo stiamo inseguendo! Dove siete? Io vado a nord! Pancia a sud invece! Cavolo! Almeno avete una pista valida! C'è la testa di un sospettato, è qualcosa! È grave! Stavo molto cercando grave! Di... Io devo fare un bagno caldo! Io non ti ci porto! Eri, ti ho salvato la vita! Oh, vattene una ragione! Bene, Sei caduto di faccia sul mio... No, non c'è stato contatto! Potrei giurare di aver sentito il naso oppure le labbra... No! E allora, questo era Chips nei cinema italiani. Boris, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana. E allora, siamo usciti dall'attualità cinematografica in sala. Fra poco passiamo invece al primo dei due grandi che ci hanno lasciato questa settimana, Martin Landau, il comandante König di Spazio 1999. Prima però giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Quando Lefty Downer mi ha trovato a Montreal e mi ha detto che i pescatori volevano che lavorassi per loro, ho pensato che mi volessero fregare. Poi ho detto, se c'è uno che può incantare il diavolo, è il mio vecchio socio. Un bel noir che ha contrassegnato l'inizio di questa stagione. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sveleremo prima della fine della nostra trasmissione. E se prima parlavamo di brividi per la sigla di Chips, quella di Spazio 1999 ci toglie direttamente la pelle. Che note straordinarie, che stagione straordinaria è stata quella per la fantascienza, per il design, per il cinema, per la televisione e per un grande attore che ci ha lasciato questa settimana, Martin Landau, il comandante König, il comandante tutto d'un pezzo, uomo affascinante, sempre fermo, sempre capace di però capire il sentimento della sua truppa ancorata a questa base alfa su una luna che viaggiava per l'universo alla ricerca, e più che alla ricerca di un posto dove stare dopo essersi staccata dall'orbita terrestre, ma che incontrava tante civiltà, a volte amiche, a volte nemiche, con uno sforzo creativo straordinario di tutti quelli che ci hanno lavorato a creare un immaginario che ancora oggi segna veramente molto spesso anche lo stesso design che troviamo dentro nelle nostre case, nei nostri vestiti. Io per esempio non ricordo di tutte spaziali più belle di quelle di Spazio 1999, e le abbiamo ritrovate in tanti film anche proprio di ultimissima generazione di fantascienza. Noi vogliamo omaggiare Martin Landau ricordando i suoi grandi film, il suo percorso, la sua carriera, che è stata una carriera lunghissima, cominciata nel 59 con un film che si intitolava 38esimo parallelo, Missione compiuta, ma poi subito dopo, lo stesso anno, con Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock, che era un giovane Martin Landau, che poi piano piano avrebbe messo insieme partecipazioni su partecipazioni, fino poi ad arrivare invece, dopo il grande successo di Spazio, a un Oscar, a Ed Wood, a Ed TV, a The Majestic, a Hollywood Homicide e infine a Remember di Ato Megoyan nel 2015, l'ultima grande interpretazione. Ma la svolta di popolarità, quello che ha reso il viso di Martin Landau un viso famoso, è stato sicuramente Spazio 1999, questa serie prodotta insieme dalla Rai e dall'Inghilterra, quindi una coproduzione italo-inglese girata negli studi di Pinewood in Inghilterra, che è diventata un culto totale, insuperato per tutti gli amanti e per molti che lo preferiscono anche ad altre serie di fantascienza. È con noi al telefono Roberto Baldassarre. Roberto Baldassarre, oltre che un vecchio amico, è anche uno dei più grandi esperti italiani di Spazio 1999, consulente di mostre, convention, DVD, tutto quello che si muove, che si è mosso attorno a questa serie, ha visto Roberto comunque metterci la testa e la partecipazione, e tra l'altro è uno straordinario designer, e lui non lo dirà perché è timido, ma è uno straordinario designer che ha disegnato gli schemi tecnici delle aquile, le astronavi nettamente più belle della storia del cinema di fantascienza. Roberto, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a te, Franco. Roby, parliamo di Martin Landau, e dicevo, quanto ha pesato nella sua carriera Spazio 1999, quanto quel personaggio così iconico l'ha trasportato fino a noi, dandogli una celebrità tutta diversa. C'è un prima e c'è un dopo nella sua carriera. Sì, in realtà Spazio 1999 è associato a Martin Landau specialmente da noi in Italia e in Europa in generale. Se chiedi a un americano tipo la serie televisiva di Martin Landau, loro ti diranno Mission Impossible, perché da loro quella è stata la serie che collegano automaticamente a Martin Landau e a sua moglie Barbara Bain. Però sì, diciamo, all'epoca c'erano due canali da noi e l'avvento di Spazio è stato per noi ragazzini dell'epoca una cosa memorabile. Non lo so, dal punto di vista della sua carriera, se ha avuto un'importanza. La carriera di Martin Landau in realtà ha avuto una seconda giovinezza ben più importante dalla fine degli anni Ottanta, quando ha collezionato 3 nomination agli Oscar per dei bellissimi film con Coppola, Woody Allen e Tim Burton. Ecco, Roby, tu hai conosciuto Martin Landau perché in tante di queste convention sono venuti praticamente tutti gli attori, gli sceneggiatori della serie. Ne abbiamo anche organizzata una insieme nel lontano 99, proprio per raccontare il giorno del distacco, quel 13 settembre, con una mostra che ancora molti ricordano a Monza. Ecco, hai potuto conoscere Martin Landau. Che tipo ti è sembrato? Com'è stato quell'incontro? Allora, io Martin Landau l'ho rincorso per anni. Sono stato insieme a altri fan italiani alle due convention americane del 99 e del 2000, ma purtroppo in entrambe le occasioni lui, per un motivo o per l'altro, non ha potuto intervenire. L'abbiamo beccato qualche anno dopo, nel 2009, a Milano, perché era stato invitato da un festival milanese di cinema, perché avrebbe ritirato il premio alla carriera. Io ho avuto modo di avvicinarlo timidamente per pochi attimi e gli ho chiesto se si ricordava di un vecchio film di guerra italiano a cui aveva partecipato. Sto parlando di Rosalino Paternò Soldato di Nanni Loi, e lui ricordava distintamente ancora Nino Manfredi, che era il protagonista, e alcuni aneddoti, tra cui il fatto che era caduto da cavallo durante le riprese e i postumi di questa caduta se li era portati dietro fino alla fine della sua vita, insomma. Ti chiedo un'ultima cosa, posso capire, Roberto, assolutamente questa emozione. Ti chiedo un'ultima cosa: qual è il tuo film del cuore di Martin Landau, al di là della serie Spazio 1999? Sicuramente Crimine e Misfatti di Woody Allen, perché oltre ad essere un capolavoro del cinema, il suo ruolo in particolare è un ruolo quasi agghiacciante nel suo realismo e nella sua spietatezza, perché è uno stimato medico che è divorato dal rimorso, e poi però magicamente, come spesso succede nella realtà e meno nei film, supera la cosa e prosegue la sua vita come niente fosse. Ci vive tranquillamente sopra. E allora, con questo ricordo noir di Martin Landau, io ringrazio Roberto Baldassarri per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. E allora, fra poco un altro omaggio, quello a George Romero, con Giulio San Giorgio di Film TV, che ci racconterà anche tutto quello che c'è da vedere per il cinema in casa. Per il momento, viabilità. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, La Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Da un ricordo, quello del grande Martin Landau, passiamo a un altro ricordo, quello dell'altrettanto grande, in un altro versante, quello della regia, Giorgio Romero. Se ne sono andati praticamente a poche ore di distanza. Giorgio Romero è stato per il cinema in generale, ma in particolare ovviamente per il cinema horror, un po' il reinventore di un genere, o forse l'inventore proprio di un genere da zero, perché quando nel 68 firmò La Notte dei Morti Viventi diede un'altra dignità a una tipologia, quella degli zombie, dei morti viventi appunto, che già negli anni del cinema pulp americano, negli anni 50 eccetera, della fantascienza, quella fatta di cartongesso e di gomma piuma, aveva avuto un ruolo, ma non aveva avuto quel ruolo era un ruolo politico, era un ruolo di denuncia di una società che si stava affogando nel consumismo. E da lì Giorgio Romero firma una serie di film che, sebbene sotto diverse angolazioni, portano avanti questo stereotipo, quest'icona, per raccontarci la nostra società, per raccontarci il nostro oggi. Cinema politico, quindi, profondamente politico. Giulio San Giorgio, cosa ci lascia il grande Giorgio Romero? Sì, devo dire che è una perdita molto, come dire, importante, perché Romero è stato veramente l'inventore e reinventore veramente di un genere, l'inventore di un mito cinematografico potentissimo, appunto, come dicevi, con La Notte dei Morti Viventi, che sono gli zombie, che sono delle bestie, degli umani decisamente strani, che sembrano un po' dei nostri post-mortem inaspettati, cannibalici, sembrano un po' una sorta di eccesso dell'Occidente nel corso del tempo. E di sei film sono stati letti veramente come diversissime metafore di uomini ridotti a zombie, come dicevi, dal consumismo, ma anche dalle religioni, dal lavoro, ricordandoci sempre comunque che il cinema dell'orrore, e questa è una delle cose forse più importanti che ci lascia Romero, è il cinema più politico di tutti, perché è quello che ci mette di fronte alle nostre paure, ai nostri confini del pensiero. Tra l'altro Romero su questa cosa ci giocava, perché declinò gli zombie e i mostri anche in modi sarcastici, ironici, penso ad esempio a un bel film come Creepshow, ma era comunque un grande narratore di tragedie, come dimostra quello che forse è il suo film più bello, la storia del giovane vampiro drogato Martin, che è veramente un film gigantesco e struggente su una ricerca identitaria che ha sempre a che fare come con la dipendenza, e che non è solo una dipendenza, come dire, fisica, ma è anche una dipendenza da un sistema. In fondo poi il punto dei suoi film non sono mai stati i zombie, i vampiri, i mostri, ma sempre gli uomini che rispondono all'allarme, all'assedio, al problema, risultando molto spesso peggiori delle bestie. Ecco, Giorgio, mi viene in mente... Giorgio. E allora, questo era un po' il ricordo di Giorgio Romero, per cercare anche di mettere nelle caselle giuste quest'altro grande che ci ha lasciato. Noi però adesso dobbiamo tornare alla normalità, e una normalità che parte dal game della scorsa settimana. Con che cosa avevamo giocato? È stato il più crudele dei suoi trucchi. Era solo un'altra maledizione. Il mondo esterno non ha posto per una creatura come me. Ma per te sì. E allora, era un film che ha aperto la stagione, è tuttora il maggiore incasso, e penso che non sarà assolutamente superato, di questa stagione cinematografica, anche se forse lievemente sotto le aspettative per un film come La Bella e la Bestia in live action della Disney. Era molto atteso, ci si aspettava forse qualcosa di più dei 20 milioni, che pure sono tanti, che ha incassato nelle sale. Adesso è arrivata l'edizione in DVD, Blu-ray e, come sempre, nella perfezione della confezione Disney. Questa Bella e la Bestia, Giulio, come la vogliamo incapsulare questa edizione in un video? Sì, io credo che sia proprio una sorta di apice, piaccia o non piaccia, di quell'ibridazione tra carne e ossa e animazione digitale che pervade un po' il cinema contemporaneo ed in effetti è proprio una copia carbone live action del cartone Disney. Il Blu-ray è veramente sontuoso, con un video 2D ad altissimo livello di dettaglio e un 3D che forse è leggermente piatto. L'audio è clamoroso, esalta la spezialità e l'immersività, ovviamente se è mantenuto in originale, e gli extra sono decisamente ricchi. Si va dalla lettura del copione al tavolo da parte dell'intero cast, con momenti di canti e balli, un dietro le quinte, le donne dietro la Bella e la Bestia, in cui Emma Watson, che è una femminista agguerrita, racconta il coinvolgimento femminile che sta dietro il film, dietro le quinte su intermezzi musicali, canzoni estese, versioni karaoke, scene eliminate, insomma chi ne ha più ne metta. E allora questo era il nostro game della scorsa settimana. I vincitori sono David Bressani di Nimis, provincia di Udine, e Maria Battagli di Concorezzo, provincia di Monza Brianza. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di cui abbiamo appena parlato con Giulio San Giorgio della Bella e la Bestia nelle proprie case. Andiamo avanti, perché dai programmi, dai palinsesti della televisione abbiamo pescato un paio di film da proporvi, a partire da Mission to Mars di Brian De Palma, che domenica 23 luglio va in onda su Mediaset Italia 2 alle 23.35. Sì, non è un film di fantascienza, ma come tipico di Brian De Palma è un film sul cinema di fantascienza. In effetti lo dice a chiare lettere proprio l'incipit, con un missile che si rivela un modellino giocattolo, mentre Lander sembra un giocattolo ma si muove davvero sul suolo di Marte. Insomma, De Palma rivisita in maniera molto consapevole i luoghi della fantascienza e rivitalizza e parodizza dinamiche e modelli da 2001 di Kubrick a Incontri ravvicinati di Spielberg, con il suo stile e la sua ironia, quindi un'ingenuità da serie B, un intreccio di commedia e melò, la colonna sonora molto altisonante di Morricone e alla fine un giocoso kitsch filosofico, con dire il tutto. E tra l'altro anticipa anche la scienza oltre che la fantascienza. Guarda caso, la questione della conquista di Marte oggi è diventata sul tavolo delle agenzie spaziali, tanto che anche National Geographic, come sapete, ha appena firmato una straordinaria serie proprio sulla conquista di Marte, che andrà in onda nella prossima stagione in televisione. Questo per dire che ha beccato nel 2000, cioè 17 anni fa, un tema che sarebbe diventato da fantascienza a scienza, e questa cosa sicuramente gli va ascritta. Martedì 25 luglio invece si va nell'intimità, Marte, a una cantina, quella in cui Bernardo Bertolucci nel 2012 ha ambientato Io e te, in onda su Iris alla 1:20 di notte. Sì, Lorenzo è un adolescente solitario che decide di passare la settimana bianca nascosto, appunto, come dicevi, nella cantina di casa, recitando al cellulare con la madre una sorta di farsa su una gita scolastica sulle piste da sci. Solo che all'improvviso arriva la sorellastra Olivia, che non vede da tantissimo tempo, alla ricerca di oggetti del passato per pagarsi il presente. La cantina diventa una sorta di teatro, con tanto di scena, retroscena, costumi e camerini. Il palco è sostanzialmente, come spesso accade in Bertolucci, quello della psiche di questo giovane, per cui Olivia, la sorellastra, diventa un familiare perturbante, un qualcosa che ritorna, una figura vicaria della madre, la traccia di suo padre, quel che in fondo Lorenzo deve imparare a leggere e reggere dentro di sé. È un film piccolo e sublime che esalta veramente lo sguardo di Bertolucci e la sua capacità di dirigere gli attori. E allora ricordiamo l'appuntamento con Io e te di Bertolucci su Iris alla 1:20 della notte di martedì 25 luglio. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che il tempo di annunciare il film misterioso con il quale abbiamo giocato oggi. Si trattava di La legge della notte. Vincitori la prossima settimana, quando ci ritroveremo qui, sabato alle 18 come sempre, e in replica la domenica su Radio 24 per La Rosa Purpurea.